Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Le buone maniere, i fatti della Uno Bianca di Michele Di Vito, con Michele Di Giacomo per la regia di Michele Di Giacomo, consulenza drammaturgica Maddalena Barile, suono Fulvio Vanacore. RAI, Radio Televisione Italiana, Radio 1. Le trasmissioni proseguono fino alle ore 6 con i programmi di Radio 1 in modulazione di frequenza e dal quarto canale della filodiffusione. Signore e signori, buon ascolto. Risveglio patriottico. Le 5 della mattina. Che poi è l'ultima occasione per godersele. Le stelle. Domani arrivano quelli là e mi fanno un sacco di domande. Non so mai cosa rispondere in queste interviste. Dopo tutti questi anni non ho ancora imparato se è meglio dire quello che si aspettano che dica o quello che nessuno vuole sentire. Allora perché te lo chiedono? Questi c'hanno tutti la curiosità, eh? Vogliono il sangue, i dettagli, le emozioni forti. Ma cosa fai a svegliare i morti? Il sangue secco è diventato polvere, basta. Sono qui, sto pagando, è fine della storia. La cosa più difficile da rispondere alle interviste è cercare di non rispondere affatto. Mettere insieme un tot di chiacchiere che poi alla fine non vogliono dire un cazzo. Insomma, dire tutto e non dire niente. Una volta mica me li facevo io questi problemi da fighetto. Sì, voilà. Una volta io le cose le dicevo belle e dritte come mi uscivano dalla testa. Pensiero uguale te lo sto dicendo. Come quella volta al processo, che quella signora mi ha urlato che dovevo ucciso suo figlio in faccia. Mica ci ho pensato su due volte io, eh. Se ne faccia un altro, signora! E ne faccia un altro! Con questa faccia qua gliel'ho detto. Vabbè, non proprio con questa faccia qui, eh. È passato un pochino di tempo, no? Se domani me ne esco con una frase così, sì, altro che buona condotta. Mi sequestrano il computer finché campo. E poi com'è che lo scrivo io il mio romanzo, la mia biografia? Magari ci faccio il botto con quello, no? Magari mi ci fanno anche un film. Altro che quella cagata alla televisione lì con Kim, vatte la pesca Stuart. Io domani devo stare attento. Attento a non rispondere alle loro domande. Di cos'è che potrei parlare, eh? Potrei parlare di quello che accade qua dentro. Ecco, sì. Del trattamento di merda che le guardie riservano soltanto a me. Troppo patetico? Allora di cos'è che potrei parlare? Ma sì. Tutto sommato io potrei parlare delle stelle. Ecco, qua va bene? State già registrando? Ok. La maggior parte di quelli che stanno qua dentro quando si svegliano la mattina e poi si guardano intorno per non impazzire se fidano a Dio. Io no. Io guardo le stelle. Sono sempre lì. Non le porta via nessuno. Mi danno sicurezza le stelle. Perché hanno il loro equilibrio. E anche qua dentro c'è bisogno di equilibrio. E l'equilibrio è disciplina. E la disciplina è pulizia. 6:30. Tu sei tutto per me. Se non è amore, dimmelo tu. Cos'è? Si addormentava, abbracciandosi a me. Mi risvegliava tra un bacio e un caffè. Il corpo va sempre tenuto pulito, va sempre tenuto in ordine, così è pronto a reagire, che qua dentro non si sa mai. Ah, anche la cella va tenuta pulita, eh? Sempre in ordine. Beh, è importante, perché la cella è un po' come la mente. Se te lasci troppa merda in giro, finisce che poi quella si accumula e ti va in pappa il cervello. 7:30. Puntuale come il sole che sorge, il mio latte caldo. C'ho boia. A me mi piace un sacco il latte caldo. Sono già le 9. A me mi emoziona come se fosse la prima volta. L'ora d'aria. Sì, che poi di aria non ne passa un cazzo in questa scatola di cemento senza un coperchio. Guardali là, tutti avanti e indietro come i bovini. Il pascolo di massima sicurezza di Spoleto! Vabbè, lo facevo anch'io all'inizio. Adesso no. Ora sto solo, in silenzio, e guardo su. Di solito, prima delle 10, un cardellino si posa sul gabbiotto dell'agente di custodia e ci caga sopra. Lo invidio parecchio, lui che può. Chissà com'è che ci vede. Piccoli piccoli. Chissà cos'è che pensa lui di noi. Oh, di solito prima delle 10 arriva. Di solito. Ore 11. L'assalto alla doccia. No, c'è troppa confusione. E a me non mi piace la confusione. 11:30, ora di pranzo. Sì, lo so, è un po' prestino, ma qualcosa lo devo mangiare lo stesso. La maggior parte di quelli che stanno qua dentro, prima di assaggiare un boccone, parlano con Dio. Io no. Ma tanto è inutile. Neanche un miracolo mi fa digerire questa sbobba. 5, 4, 3, 2, 1, ore 13, seconda ora d'aria. Oh, ma piano! Ma che cos'è? Sembra di stare all'asilo? Perché aprono i padiglioni. E chi c'è, i parenti, gli amici negli altri reparti, ha 60 minuti per farci due chiacchiere. I nuovi tra loro parlano dei processi e dei rinvii a giudizio. Che cazzo ci avranno da dirsi? Oh, a te quant'è che ti manca? 2 anni e 6 mesi. E a te? A me 1 anno e 3 mesi, ma domani 1 anno, 2 mesi e 29 giorni. Oh, dai, che culo. I vecchi invece fra loro parlano di calcio. Io faccio parte dei vecchi, però io non parlo mai di calcio. A me non mi piace il calcio. A me piace il basket. Ma tanto nessuno ci capisce un cazzo di basket qui. Allora mi faccio gli affari miei e non parlo con nessuno. Però scrivo. E se scrivo il mio romanzo, le mie mail, le mie lettere. Ma no, non i miei fratelli, non più. Tanto mio fratello Robertino, quando non è in isolamento, nemmeno me le apre le lettere. Mentre l'altro mio fratello, il più piccolino, Alberto, se ne sta sempre chiuso in cella a guardare il soffitto. Di solito, prima delle 14, sul muretto di cinta arrivano 2 cornacchie. Due sorelle cornacchie, nere come il carbone. Ah, come lo so che sono sorelle? perché si beccano fra loro. Ma mica per litigio. Si espulsano a vicenda, si aiutano. È normale fra fratelli, no? Anche io quando ero piccolo allacciavo le scarpe all'Alberto. E Robertino allacciava le mie. Va bene, ho capito. Ore 17, ci risbattono tutti quanti dentro. E lì allora che cazzo fai, eh? Niente, ti rilassi un po', eh? Ti fai, un caffettino, ti metti anche a fare un pochino di ginnastica. Vabbè, certo, poi io scrivo le mie lettere e poi, finalmente, arriva il momento mio preferito. Dove cazzo è? Dove l'ho messo? Zanna bianca. A me mi piace Zanna bianca. Ah, non ce n'ha per nessuno lui, eh? Allora, prima Zanna bianca era stato solo il nemico della sua razza e un nemico feroce. Adesso divenne il nemico di ogni cosa. È più feroce che mai. Era tormentato a punto tale che odiava ciecamente e senza il minimo barlume di un motivo. È troppo forte, Zanna bianca. Io non lo mollerei mai. Ma non posso, perché alle 19:30 io ho un appuntamento molto, molto importante. Super Quark. A me mi piace molto Super Quark. Perché mi rilassa. Ma sono già le 21. Il primo avvertimento. L'ultimo giro di reparto dell'agente di custodia. Padiglione chiuso. La notte qua dentro è nera come la pece. È imprevedibile lei. È anarchica. E le sue figlie, le stelle, brillano come cazzo vogliono loro. Brillano così tanto che fanno paura. No, ma a me non fanno paura. Io ho smesso da tempo di avere paura. Anche io ho le mie figlie da contare. Le mie stelle sul soffitto, sono soltanto mie. Ogni notte controllo che ci siano tutte, che non me le portino via. Perché ogni tanto qualcuno entra strisciando come un ladro e porta cattivi pensieri con sé, porta guai. Ma io resto vigile, perché conto le stelle. Una stella, due stelle, tre stelle, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Fabio! Sono io. Guarda che ti vedo, è inutile che ti nascondi. Ti ho sentito mentre facevi la prova per la tua intervista. Ma come cazzo parli? Mi piace il basket, Super Quark, l'igiene prima di tutto. Te fatelo dire, traso di sfiga da tutti i pori. È una bella scarica di legnate, non te la toglie nessuno. Ti sei messo a fare bravo ragazzo adesso, eh? Vuoi che i fans ti scrivano le letterine? Puoi prendere per il culo quelli della TV? A me no. Io lo so come sei fatto, Fabio. Ce lo siamo detti molte volte quando sei arrivato qua. Si fa una scelta e poi bisogna essere coerenti con se stessi. Tu sei coerente con me, Fabio? Tutti quegli sforzi che hai fatto per non finire ad essere una nullità. Ma mi ascolti? Tanto lo sai che torno. Io non ti lascio. E mi devi anche ringraziare perché sono l'unico amico che ti è rimasto qua dentro. L'unico. E mi devi rispettare. Devi rispettare quello che sei. È una questione di principio, di educazione, di buone maniere. Buone maniere. Certo che fa schifo qua dentro, eh? Come si fa a vivere in questo silenzio? Come fai a sopportare il tuo cuore che batte lento, fiacco, fuori tempo? Te lo faresti un bel viaggetto come ai vecchi tempi? Solo a dirlo, Fabio, non senti come il cuore accelera. Mi mancano gli altri. Robertino non si fa più sentire. Si risposerà in carcere con una spacciatrice olandese. Ha sempre avuto gusto lui, mica come te, che il fatto di donne non ci ha mai capito un cazzo. No, no, non che Eva fosse da buttare via, eh. Un gran bel culo dell'est. Ma non ti ha mai voluto bene, nemmeno per un momento. Nemmeno quando le davi soldi e la trattavi come una signora. Perché quando uno è puttana, puttana rimane, è ingrata. Oh, le portavi le brioche la mattina a letto, e lei? Ma hai sentito cosa che ha detto i magistrati? Alberto invece? Ti ha scritto ultimamente? Che fenomeno. Prima fra un po' si infilava il manico dello spazzolino in gola e adesso si è messo a fare il chirichetto. Ha chiesto il perdono all'arcivescovo. Ma quelli dell'associazione delle vittime si sono messi in mezzo. Solo Dio perdona, ma nessun perdono in terra per questi delinquenti crudeli. Gli è andata male. Gli è andata male. Ma che scemo! Non ti ho chiesto nemmeno se ti piace. Sembra o non sembra un poliziotto vero? Oh, l'ho portata per te la divisa, eh. È un regalino. Dai, che sembro davvero un poliziotto vero. Mani in alto! Polizia! Qualunque cosa dirai potrà essere usata contro di te. Mani in alto! Niente male, eh. Niente male. Per uno che non ha superato neanche la visita medica. Zanna bianca! Altro che catechismo. Questo qua dovrebbero insegnare ai bambini, eh? L'unica scuola di vita è la foresta. Diglielo domani all'intervista. Eravamo lupi, Fabio. Un branco di lupi affamati. I deboli, quelli devono farsi da parte. Se si mettono in mezzo problemi loro, saranno schiacciati. È la selezione naturale, bellezza. Non sono io a dirlo. Ora ho capito perché ti piace Super Quark. Oh, certo che non c'è mai un cazzo in TV a quest'ora, eh? Dai su, Fabio, andiamo. Tu devi distrarti un po', hai bisogno di aria. Devi evadere. Con la testa, intendo. Tanto qualunque cosa dirai domani all'intervista, qualunque cosa, rimani quello che sei. La tua faccia non la scorda nessuno. Tu sei quello che gli spegneva la candela. E se non ricordo male, non eri proprio delicato. Ti ho sentito quando hai detto che non vuoi svegliare i morti. Ma tu pensi che loro dormano? Sono svegli come grilli. Non passa giorno che non pensino a noi. È tutto scritto ancora là. Il sangue non va mica via facile. Tutte quelle macchie sui muri, sui cofani, sulle vetrine. Certe cose non si cancellano facilmente. E ora tu devi ricordare, non per loro, per la loro pietà, ma per te, per ricordarti chi eri, per ricordarti chi siamo e come è cominciato tutto questo. Ma che cazzo! Stupido idiota! Contadino! Se siamo in questo schifo è soltanto colpa tua! Oh, cosa ti sei offeso? Ci facciamo una partitina a basket, eh? Un bel uno contro uno, come al solito? Tanto io lo so cosa pensi, Fabio. Tu pensi all'intervista. Non gli parlare delle stelle. Guardali in faccia, Zanna Bianca. Dagli il sangue che vogliono, dagli i corpi. Fagli montare e smontare le ipotesi. Fagli richiamare i loro strizzacervelli. Urla, bestemmia. Fagli mettere una museruola. Noi possiamo ancora fare paura. Fagli capire che non ci hanno ancora domato. E se fai il bravo ti porto anche una bella sorpresina. Sarà come ai vecchi tempi, Fabio. Come ai vecchi tempi. Tornata. Quella vocina di merda. Ma te guarda che cazzo ha combinato. Pensa, Fabio, eh? Pensa. Te devi essere lucido, Fabio, hai capito? È importante. Pensa, Fabio, Ma te devi essere lucido, Fabio, per domani. Sei tu che parli adesso, mica lui. Posso farcela, sì. Mi sono preparato. No, non mi fotte. Io mica mi lascio fottere. No. Lui va e viene. Ma adesso sono io, questo qua. Questo Fabio, sono io, non lui. Non mi fotte, no. Non mi fotte. Pensavo di poter controllare questa cosa. Con la disciplina, con la ripetizione. Ma poi ci sono notti come questa qua, che ancora lui a controllare me. Arriva. È come una corrente fredda che ti ghiaccia, il sudore qua dietro al collo, una retta malsana, viziata, che mi fa tremare. Fabio, pensa, eh? Non pensare a lui, eh? Pensa a qualcosa che ti fa stare bene, pensa a... Cazzo, aria. Io ho bisogno di aria. Se ci fosse dell'aria vera qua, non questi spiffare di merda. Aria sana. Aria di campagna, ecco sì. La brezza d'autunno. Quella mattutina, giù, al vecchio casale. A casa nostra. Con la nebbia bassa, che te devi aspettare un po' prima che si dirada. Allora sì che può mirare bene ai bersagli lungo al fiume. Bottiglie, lattine, fusti, tronchi, è uguale, basta che non si muovono. Io Robertino, Eravamo molto più bravi dell'Alberto. Ma lui aveva la scusa di essere il più piccolo. Ha sempre avuto scuse quello lì. Io e Robertino invece ci andavamo giù davvero pesante. La competizione fra fratelli è una roba sacra. E quando c'entravamo il bersaglio, eravamo contenti, come a Natale. Anche se il rinculo ti lasciava il livido sulla mano. Anche se ti si accavallava il nervo del collo, ne valeva la pena. Perché la bottiglia si frantumava come coriandoli al vento. E il fusto si metteva a zampillare come una fontana. Una beccaccia. Ho ucciso una beccaccia. Vieni! Ho ucciso una beccaccia! E l'ho presa io! Mica l'ha presa Robertino! E neanche Alberto! L'ho presa io! L'ho uccisa! Vai, grande Fabio! Che sei il migliore! Ho ucciso una beccaccia! Grande Fabio, grande! Sei il migliore, Fabio! Grande Fabio, grande! Beh, era un gioco, no? Il nostro gioco preferito. E io ero il più bravo. Anche se la natura mi ha fatto questo scherzetto di merda alla vista. Perché io ero il più calmo. E se te mantieni la calma, poi la mano non ti trema. E accompagna l'occhio al bersaglio. Ma non sempre si può mantenere la calma. E questa qua è una cosa che ho capito meglio una decina di anni dopo. Al casello autostradale di Pesaro. Il primo colpo. 1.300.000 lire. Oh, ma che cazzo li hai mai visti? Tanti soldi in un giorno solo. L'abbiamo divisa in tre, come sempre, pure le monete. Tornato a casa, io li ho sotterrati dietro al capannone, vicino ai pomodori. Oh, non lo so perché. Magari aumentavano di volume. Ho camminato giù al fiume tutta la notte. Non riuscivo a dormire. Avevo il cuore che era come un tamburello. Io prendevo a pugni la nebbia, sperando di beccare in pieno la faccia di qualcuno. Ecco sì, magari la mia. È lì che ho sentito la voce per la prima volta. Te la sei fatta sotto, Fabio. Non va bene così. Ma chi è? La paura di fonte. Fai come Farovi. Vieni una paura di niente. Fai come lui, che fai bene. Ma chi ha parlato? Chi è? Se c'è da sparare, tu spara. Che cosa vuoi da me? Chi sei? Sei tu, Fabio. Non ti riconosci. Sei tu. Silenzio. Zitto. Dovevo farlo stare zitto. Già in macchina si percepiva. Nessuno ha parlato per tutto il tragitto fino al casello. E non era un buon presentimento. Perché i nervi al primo intoppo saltano. Ed è così che è andata. Il casellante, davanti a tre passamontagna, si è pisciato nei pantaloni. Aveva le mani talmente sudate da non riuscire a tirare fuori i soldi dalla tasca. Robertino, all'interno del gabbiotto che gli puntava quella cazzo di peretta dritta sul muso. Vuoi un buco in fronte? Cos'è questa miseria? Vuoi un buco in fronte? Quello che mi guardava, a me, come se dovessi dargliela io la risposta. Non mi guardare! E vai rapido con quella cassa. Oh, ma devo morire qua dentro? Non mi guardare! E lui niente. Paralizzato. Cristo, e lì a te ti prudono le mani. Perché te pensi che lo sta facendo apposta per far arrivare le volanti in tempo? Ma più gli urli contro e più quello ti guarda imbambolato. È lì che cazzo fai? Io mollo tutto e me ne vado. No. Non funziona così. Abbiamo detto che lo facciamo e io lo faccio. E poi che cazzo gli dico agli altri? Oh, Roby, Albe, andiamo via perché secondo me qua si mette un po' male. No. Non vado per uscire, io lo trovo sempre. Albe, ma te l'hai sentito? C'è un rumore. Sì, Albe, c'è un rumore, vuol dire che c'è qualcuno. Dai, su, metti in moto, rapido. Oh, Roby, prendi quei soldi che vanno benissimo e filiamo. E te non ti muovere dal gabbiotto o ti buco il cervello, è chiaro? Sbrigati, cicciona di merda. Sbrigati! No, dai, cazzo fai. Oh, Roby, mettila via quella pistola. Dai, Roby, che cazzo fai? È soltanto un coglione. No, Roby, aspetta. capi lo fa. Non gliene frega un cazzo a lui. Non ha paura. Lui è pronto. Pronto a tirare quel grilletto. Spara. Così lo capiscono chi comanda, chi è più forte. Spara, Fabio. Spara. E allora... Silenzio. Come se avessero staccato la corrente al mondo intero. Silenzio. Puttana boia, quella Fiat regata di merda si era spenta di colpo. Oh, e non ripartiva mica! Alpe, testa di cazzo! Te l'avevo detto di non prendere la tua macchina! Il casellante che continuava a chiedere scusa. Robertino che gli puntava la beretta sulla guancia. E quello che mi guardava a me come se fossi lì per aiutarlo. Le manate sul cruscotto di Alberto, le bestemmie di Robertino, le urla del grassone, la testa pulsava, le orecchie fischiavano, il fucile tremava. La forcella d'avviamento, il rombo del motore, e allora via, via, sgommando verso il luna della campagna, via! Ho avuto paura. No, mi sono cagato sotto come un bamboccio, io ho avuto paura. Ma mica per quello lì, casellante, no. E neanche per la polizia. Figurarsi, eravamo noi, la polizia. No, paura di rimanere il cagassotto che ero. Paura del dopo, dell'adrenalina che scende e della vita di merda che ricomincia. Paura di finire come mio padre, ecco sì. Che è divorato dall'odio, ma è troppo educato per me per muovere un dito. Perché la legge va sempre rispettata, sia chiaro. Noi in famiglia siamo persone per bene. Papà. Papà ha le sue buone maniere. Ma le buone maniere un cazzo. Ordine, disciplina. E poi ti ritrovi con un cappio al cervello e una vita di merda. Perché se ti fermi a riflettere anche un secondo, si è fottuto. Chi rispetta la legge è un vigliacco, ecco. È un cazzo che non si rizza. C'erano nuove regole da stabilire. E volevo essere io a stabilirle, con o senza divisa. Tanto quella lì ce l'avevano i miei fratelli. E serviva solamente a prendere uno stipendio da fame e a farsi prendere per il culo dai papponi, dai negri, dai tossici. No, no, no, no, no. Io mica avevo bisogno di una divisa per sapere chi ero e quello che volevo. Solo chi non ha rispetto per niente può prendersi tutto, e allora noi ci siamo presi tutto. E dopo il casello di Pesaro, una stazione di benzina, un ufficio postale, un supermercato. Ma no, no, no, no, no, no, no, no, no, Fabio, Fabio, Fabio, te vuoi di più, vero? Te vuoi prenderti tutto, e allora... Si punta in alto. Banche. Ma più punti in alto, più sali di livello. Più sali di livello, più soldi sono vigilati. Più sono vigilati, più devi accettare il rischio. Più accetti il rischio e rotoli giù, dove non si torna più indietro. Ma noi no. Noi ci siamo aggrappati alla fune dell'adrenalina per mantenere l'equilibrio. E ci siamo rimasti appesi per 7 anni. Ho 7 anni a dormire con la beretta sotto al cuscino. 7 anni fino a fottere la morte. Fantasmi. Una rapina in banca il giorno prima. Una stazione del cazzo di benzina un giorno dopo. Fantasmi. Alle 8 una bella rapina alle poste. E alle 9 i miei fratelli erano già lì che interrogavano i testimoni. Fantasmi. Alle 8 una cappatina all'armeria. E alle 9 i miei fratelli erano lì per la perizia balistica. Fantasmi. Eravamo su tutti i rotocalchi, su tutti i telegiornali. Tutte le TV parlavano di noi. Fantasmi. Sapevamo i nomi degli agenti, le matricole delle volanti, potevamo contarli i peli del culo se volevamo. Fantasmi, impuniti, a controllare dall'alto. Fantasmi. Servi dello Stato, orgoglio di papà, ma mica ci campi con l'orgoglio. A me neanche mi hanno preso. Ed è 14 anni che io sparo alle beccacce giù al fiume. Poi non passo l'esame in polizia per un difettino della vista. No, certo che la vita c'ha un senso dell'umorismo del cazzo. Io non mi vergogno! Ho passato 9 anni a mettere da parte le mollichine da parte. Da 16 anni che mi spacco la schiena in officina. E poi, appena io mi metto in proprio, 2 clienti mi fottono con una truffa da segni falsi e la mia carrozzeria va in bancarotta. E non serve mica niente andare a testa bassa a chiedere il lavoro al vecchio capo officina. Senti Fabio, mi dispiace, ma c'è il polacco di turno che lavora come te, ma per metà stipendio. Ah, va bene. E allora. Allora io domani ti brucio la carrozzeria. Te la brucio! Sono cose che si dicono. Allora te ne vai tranquillo al bar di Torriana. A berti un bel bianchino in santa pace con i tuoi amici. Perché te lo meriti, cazzo? Perché hai lavorato una vita e non è servito a niente. Ciao, ciao. Oh, Sandro, mi faresti un bianchino? Oh, segnamelo questo, eh. Guardali là, eh. Guardali là. Tutti quanti che fanno gli sboroni, eh? Tutti quanti che progettano la svolta della vita. Bravi, bravi. Io domani vado in banca. E se non mi fanno il prestito, sapete cosa faccio? Io svaligio il portavalori così pago i debiti. Bravo! Ah, ma te sei uno sborone, bravo! Sì, è facile fare il grande dopo che ti sei fatto 2 bianchini, Centinaia di rapine. 24 morti, 114 feriti, 7 anni di terrore, di lutti, di crimini, quelli dell'Emilia. Sandro, fammi un altro bianchino. E segna anche questo. Eccoli là. Eccoli là che fanno le chiacchiere come i topi loro, nel baretto, bravi, siete proprio bravi, eh? Io stasera, tornando a casa, passo per la statale, e se quel papone mi guarda ancora storto, oh, io gli pianto una bella parotola in fronte, bravo, sei molto bravo te, bravo, sì certo come no, eh? È facile fare il grande dopo che ti sei fatto una boccia di Sangiovese. Alzano il tiro i fratelli Savi in un'escalation criminale che punta a obiettivi più redditizi. Dall'autunno del 1987 non più solo caselle autostradali, ma distributori di benzina, uffici postali, banche, supermercati e anche, a danno di un commerciante, un tentativo di estorsione che si conclude nel sangue. Però del negro che gli trovano in casa 50 mini di rovina non ne parlano, E del pappone albanese? Che con 2 zoccole in un mese si faceva quello che guadagnavo io in un anno di officina intera? No, neanche di quelli parlano, chissà com'è. Tutti questi immigrati che si sentono i padroni della strada a casa nostra, soltanto perché hanno il giro giusto si fanno i soldi facili. No, io non ci passo da fallito per colpa loro. Allora i soldi facili li facciamo anche noi, anche se non ci appartiene, anche se è contro le regole, anche se ne siamo cresciuti nel modo giusto, con certi principi. Esatto, sì. Le buone maniere. Proteggi la famiglia, rispetta la legge, crepa sgobbando. Le buone maniere, sì. Le buone maniere. Ma quando intorno a casa tua c'è soltanto terra arida, ci fai poco con le buone maniere. Perché tanto a rispettarle sono rimasti soltanto gli stronzi. Quelli che lo Stato non invita mai al banchetto dei meritevoli. Allora che si fotta lo Stato? Ci mangio anche io al banchetto e mi prendo tutta quanta la torta. Ma ci vogliono le palle. La prima non ci dormi, è vero. Ma la seconda la vinci la paura, te la mastichi e la butti giù, dove non può più parlare. E in un attimo ti sei fatto 12 caselli autostradali in 2 mesi, mettendo in tasca 100 milioni, no anzi 33, sempre diviso 3, perché la famiglia è importante. Un gioco, una ragazzata, eh? Come sparar giù al fiume. Ma sotto l'albero di Natale, e invece del solito pigiama di flanella, ci parcheggi una bella Kawasaki Ninja rosso fiammante, e nel letto ti aspetta la bionda dei tuoi sogni. Adesso chi è il fallito? Eh? Chi è il fallito? Fabio, ti ho portato una bella sorpresina, ti piacerà tantissimo. Sono certo che non riuscirai neanche a immaginare cosa. Non è magnifica? Un gioiellino, eh? È proprio il modello che piace a te. Fiat Uno, 45 cavalli dell'86. Oh, modelli così non ne fanno più. Senti che roba. Dai, vieni! Ti porto a fare un giro! Guarda che con questa ci riconosceranno tutti, Fabio? Tutti se la ricordano, questa! Tutti! I fanali accesi sotto la pioggia. Il fumo che fa condensa. I vetri appannati. Alberto al volante, che si caga sotto ad ogni rapina. Robertino, ad ascoltare le frequenze dei colleghi in questura. E poi tu. Sempre muto come un pesce, abbracciato al tuo AK-47. Chilometri macinati sulla provinciale Bologna-Rimini, come una famigliola felice. Oh no, dimenticavo. Ogni tanto c'era anche qualcuno preso a casaccio per strada, il curioso di turno. Perché a noi curiosi non sono mai piaciuti, vero? Come quella signora in armeria, te la ricordi? Quante domande faceva. C'era anche un poliziotto in pensione con lei, no? Non ve le voleva far provare le armi. Non ce le fai provare? Va bene, e allora daccele tutte. La spesa era fatta. Il volto era coperto. Ce la potevamo andare. E invece... Delinquenti, io vi ho riconosciuto. Avete l'accento di Rimini. Ah sì, signora? Te ci hai riconosciuto? O quel benzinaio che vi ha retto lo sguardo. Non aveva paura lui, neanche davanti a una beretta. Volete il mio portafoglio? Va bene. E allora, eccolo. Ah sì? Te fai l'eroe. O quel ragazzino, preso a casaccio per strada. aveva soltanto parcheggiato accanto a una Uno bianca. Zitto! Entra e testa bassa! Ecco, bravo così, zitto! Bravo. E adesso vai. Dai che sei libero, vai, vai, vai, tranquillo, vai, vai, vai, vai. Un gioco, una ragazzata, come sparare su al fiume. Il terrore è importante. L'effetto che fai sulla gente. Quelli della Uno bianca. Così nasce un incubo, così mantieni una leggenda. Le TV e i giornali ci hanno marciato per anni con noi. Eravamo così bravi che pensavano che fossimo dei servizi segreti. Un gruppo addestrato. Certo, sì, come no. Addestrato a sparare alle beccacce. Allora, Fabio, hai deciso che direi domani all'intervista? Non gli parlare delle stelle. Perché non gli dici che eri un dio? Falli saltare dalla sedia. Digli la verità. Perché non gli dici delle vittime che hai lasciato sull'asfalto? Perché quello che tu sei, un assassino. Forza, dai, dillo. Poi ti sentirai meglio. Lascia stare tutte quelle cose da avvocato, i permessi. Che cosa credi? Che leccando il culo qua dentro vivrai meglio? Assassino. Forza, dillo. Casellanti, benzinai, passanti, clienti curiosi, carabinieri, guardie giurate, curie della Digos. Quanti corpi, quante parole lasciate sull'asfalto. Perché? Te lo chiederanno ancora, eh? Perché? Che cosa erano per voi? Quanti insulti, quante preghiere. Guardali in faccia. Loro sono ancora lì. Guardali in faccia. Ottobre 87, Cesena. Tentativo di estorsione. Ferito poliziotto, muore 2 anni dopo. Gennaio 88, Casaletto di Reno. Rapina in un supermercato. Muore guardia giurata. Aprile 88, Castelmaggiore. 6 feriti e uccisi 2 carabinieri. Giugno 1989, Corticella. Rapina in un supermercato, crivellato testimone oculare. Gennaio 90, Bologna, rapina in un ufficio postale, 45 feriti, muore un pensionato. Ottobre 90, ucciso un passante per aver mandato il numero di una targa. Dicembre 90, campo nomadi di Bologna, fuoco contro le roulotte, 2 morti. Dicembre 90, Castelmaggiore, rapina a un distributore di benzina. Muore il titolare. Pochi minuti dopo, ucciso un passante per essersi avvicinato a guardare dentro una Uno bianca abbandonata. Gennaio 91, Bologna, Pilastro. Crivellata pattuglia dei carabinieri. Muoiono 3 militari, finiti con un colpo da nuca. Aprile 91, Borgo Panigale, distributore di benzina. Ucciso benzinaio. Maggio 91, Bologna, rapina in armeria, uccisa titolare e carabiniere in pensione. Giugno 91, Cesena, rapina alla stazione di benzina, ucciso il gestore, incasso, nulla. Agosto 91, San Mauro Mare, uccisi 2 operai senegalesi, 1/3 ferito. Febbraio 93, Zola Predosa, sequestro e omicidio di un ragazzo di 21 anni. Per aver osservato un cambio macchina. Ottobre 93, Riale, ucciso il Trauto. Maggio 94, Pesaro, ucciso direttore di banca. Qua va bene. Ok. State già registrando? La maggior parte di quelli che stanno qua dentro, quando si svegliano la mattina e poi si guardano intorno per non impazzire, si fidano a Dio. Io no. Io guardo le stelle. Sono sempre lì. Non le porta via nessuno. Mi danno sicurezza perché hanno il loro equilibrio. E anche qua dentro c'è bisogno di equilibrio. Una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro. Lo spettacolo Le buone maniere, i fatti della Uno Bianca di Michele Di Vito, con Michele Di Giacomo per la regia di Michele Di Giacomo, consulenza drammaturgica Maddalena Barile, suono Fulvio Vanacore. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Silvano Falocco sul suo libro Roma Coloniale, presentato a Roma alla libreria Tomo sabato 4 giugno 2022 alle ore 16:30, alla presenza degli autori Silvano Falocco e Carlo Baumis, modera Federico Raponi. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci racconti di questo lavoro? È un progetto sulle tracce del colonialismo a Roma, nelle vie, nelle piazze, nelle targhe, nei monumenti, nei palazzi, e a partire da queste tracce che sono state classificate in modo sistematico, sono quasi 150, abbiamo intrecciato queste tracce con la storia non conosciuta del colonialismo italiano, non conosciuta al pubblico di massa, ma conosciuta ovviamente agli storici. Il caso più noto è quello degli obelischi restituiti. Sì, l'obelisco restituito di Aksum è e rimane l'unico reperto restituito, mentre ce ne sarebbero molti altri, considerando che l'Italia ha saccheggiato il monastero di Debre Libanos, che aveva dei tesori, dei preziosi di valore inestimabile, e in seguito a quel saccheggio sia Badoglio che Graziani hanno portato centinaia di casse in Italia di preziosi che non sono stati né trovati né restituiti. Quindi l'obelisco di Aksum rimane in ogni caso l'unico reperto che è stato restituito, nonostante ci fossimo impegnati con il trattato di pace del 1947 alla restituzione integrale di ciò che era stato sottratto. Parlavi di Graziani, a Rodolfo Graziani il comune di Affile ha dedicato un monumento, quando sappiamo invece che è stato responsabile di eccidi, dell'uso di armi chimiche anche contro le popolazioni. Sì, Graziani è stato e rimane un vero criminale, autore direttamente di stragi, di eccidi, di deportazioni, dell'uso indistinto del gas al fosforo che ancora oggi noi contestiamo quando viene utilizzato nelle guerre. Noi fummo tra i primi ad utilizzare i gas vietati nella Convenzione di Losanna, che erano appunto iprite, fosgene, fosforo, un criminale vero e proprio che qualcuno ancora oggi da noi si ostina a considerare un eroe coloniale, che peraltro è stato anche uno dei 10 per cui è stata chiesta un riconoscimento come criminale di guerra, ma le condizioni storiche e l'oblio italiano all'epoca non lo permisero. Questa ricerca dove vi ha condotto a Roma? Roma è piena di quelli che noi abbiamo chiamato enclave coloniali, cioè delle zone, a volte dei grandi quartieri. Noi conosciamo bene il quartiere africano, sappiamo che tutte le vie sono state istituite tra la fine del 36 e il 37 con la costituzione dell'Africa orientale italiana, dell'impero fascista, ma in verità ne esistono altri di piccoli enclave coloniali a Casalbertone, a Garbatella, nella zona quella che oggi noi vediamo vuota perché ci fu l'obelisco di Axum e oggi invece è rimasta deserta, ma anche quella, Piazza dei Cinquecento, sono tutte zone dove esistono diverse targhe, diverse vie dedicate o a luoghi di battaglie. Molte volte le battaglie sono l'altra faccia del crimine. Noi abbiamo una piazza prima del Ponte delle Valli che è dedicata a Addis Abeba, è stata istituita a dicembre del 37 dopo la strage, quindi è una piazza che andrebbe ridenominata come luogo simbolo dei crimini del colonialismo italiano. Si sta muovendo qualcosa per la restituzione dei tesori, che tu sappia? Ogni volta che vengono intervistati i monaci di Debre Libanos, del monastero, il primo aspetto che sottolineano è che di questi tesori nessuno ne parla, né esiste una trattativa esplicita per restituirli. Esiste un gruppo di storici che fa la verifica delle principali aste in rete, se queste aste hanno questi tesori, abbiamo delle corone d'oro, dei tamburi d'oro, degli ornamenti religiosi, libri di preghiere, ma molto importanti, miniati d'oro, e quindi cerca di rintracciarli, ma oggi la cosa più difficile è quella di poterli rintracciare. Esistono delle foto storiche, ad esempio della cattura di Mussolini, e in una di quelle foto a fianco al comandante Walter Audisio e a Raffaele Cadorna a Dongo, in una di quelle foto si vede una corona che gli esperti attribuiscono a una delle tre corone sottratte al monastero, perché una corona classicamente etiope, ma non mi sembra che si stia lavorando per rintracciarle e restituirle. Per i crimini commessi in qualche modo l'Italia ha pagato? No, l'Italia non ha pagato mai nulla, non li ha riconosciuti, nel senso che i 10 criminali di guerra che l'Etiopia, per i quali chiese un processo internazionale nel dopoguerra, di fatto l'hanno scampata. Graziani è morto qui in Italia tranquillamente girando per convegni dove parlava delle sue esperienze coloniali, e l'Italia non ha pagato né economicamente né con la memoria. Non esiste un giorno, e all'interno di questo libro tra le conclusioni lo indichiamo come necessario, il fatto di istituire una giornata sui crimini del colonialismo italiano. Non c'è neanche questo, eppure se parlassimo di numeri, la strage di Addis Abeba, che è iniziata con quei 3 giorni terrificanti di rappresaglia dove fascisti e polizia coloniale e esercito e aerei ammazzarono circa 20.000 persone, quindi una cosa di una ferocia, di una brutalità che toccò quasi il 20% della popolazione che risultava essere presente ad Addis Abeba. Neanche di questo abbiamo memoria, anche perché né la televisione, nei film, nell'arte ha mai ritenuto che questo fosse una pagina da indagare anche da un punto di vista artistico. Ci teniamo che attorno al volume si crei, e su questo stiamo lavorando, un vero movimento di attivazione politica. Peraltro in molte città d'Italia, da poco Padova, esistono dei movimenti di decolonizzazione che stanno ponendo al centro dello sguardo sulle città anche la questione del fascismo e dei crimini coloniali. Ecco, noi vogliamo che a partire dal libro ci siano una serie di iniziative rivolte alla Treccani, rivolta alla regione, rivolta al comune, per avere un'autonomastica riparativa che dia un altro senso ai luoghi che invece hanno delle tracce che oggi noi non riconosciamo. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Il sito delle Comari Edizioni, che è www.lecomari.it, il libro lo trovate nelle librerie indipendenti, e dal sito si possono ricavare anche le informazioni sulle presentazioni, o anche si possono organizzare delle presentazioni. Noi ci teniamo molto che in queste presentazioni siano presenti anche comunità di afrodiscendenti o associazioni di afrodiscendenti. A presto! Grazie, arrivederci! Silvano Falocco sul suo libro Roma Coloniale, presentato a Roma alla libreria Tomo sabato 4 giugno 2022 alle ore 16:30, alla presenza degli autori Silvano Falocco e Carlo Boumis, modera Federico Raponi. Con Lorenzo Terranera, uno dei curatori della festa Bertani Dai, a Roma, nel rione di Trastevere, domenica 5 giugno 2022. Ben trovato, Lorenzo. Ciao, ciao a tutti. Partiamo dalle origini. Raccontaci un po' come nasce Bertani Dai. Il Bertani Dai nasce circa 17 anni fa. È nato sotto in una cantina questa festa, in questa via che è via Bertani. Avevamo uno studio, eravamo un gruppo, poi siamo diventati un'associazione, una scuola, varie cose. È nato dall'esigenza di aprire gli studi e far vedere quello che succedeva negli studi e portare fuori anche così un po' di colore sulla strada, un po' nella via, e quindi di festeggiarsi. La festa, appunto, sono 17 anni che c'è e ogni anno c'è un tema. Abbiamo fatto migranti, l'acqua, abbiamo fatto i mostri, abbiamo fatto un po' di tutti i colori come temi. E a proposito di colori, quest'anno è il verde. È il verde, quest'anno è il verde, che poi, insomma, adesso a ripensarci su tante cose, comunque verde speranza, dai, più sulla speranza, un verde speranza, io direi, per quest'anno. E siamo stati fermi. L'anno scorso abbiamo fatto una versione molto ridotta, anche perché con le mascherine, con tutta una serie di problematiche legate appunto ai decreti, quindi il distanziamento, il numero comunque chiuso delle persone, la sicurezza, tutta una serie di cose, abbiamo fatto una versione molto ridotta, che comunque insomma, è andata abbastanza bene. Non avevamo il palco, quest'anno ritorna il palco, quindi la musica e gli spettacoli con il Teatro Verde e poi chiaramente tutta una serie di iniziative, di laboratori, di mostre, incontri vari. La via è un'isola pedonale in questa occasione? Sì, la via è chiusa, via Costa Imperiale è chiusa tutta e poi è chiusa anche via Sturbinetti, che è la via più corta di Roma, ha solo due civici, è chiusa anche quella. Lì in particolare ci saranno 100 metri quadri di prato vero, come 3 anni fa, torniamo a mettere il prato. Da che ora a che ora? Dalle 10:30 alle 10:30, quindi una full immersion. 12 ore. Di 12 ore piene, sì. Poi chiaramente noi siamo qui dal sabato per l'allestimento e insomma i preparativi. Già da qualche sabato, il fine settimana, insomma, facciamo laboratori con i bambini per preparare un po' e allestire, fare un po' di scenografia per la festa. E lo stesso stiamo facendo con la scuola, con Officina B5, preparando il portale, quindi decorazioni, eccetera. È una festa pensata soprattutto per i bambini, ma anche per i grandi. Assolutamente, grandi e piccini. Sì, durante la mattinata, nella mattina, insomma, primo pomeriggio, così ci sono più attività per bambini, ecco. Ci sono sempre spettacoli in teatro, eccetera. Poi arriva la musica e quindi il palco, ci sono gli Hakuna Matata, c'è Nur Eddin, ci sono gli Arpillo che chiuderanno la serata. Ecco, appunto, la mattina sono più attività per bambini e per le famiglie, quindi laboratori e spettacoli. E poi andando avanti rimaniamo tutti quanti, siamo qui a Trastevere, insomma, la festa. E c'è anche la possibilità di uno spuntino? Assolutamente, ci stiamo organizzando per uno spuntino, poi qui c'è come sempre il ristorante qua, che sarà aperto insomma per l'occasione, e poi sì, anche noi insomma ci stiamo un pochettino attrezzando, niente di speciale, non faremo nulla di speciale come menù, un piatto di pasta, però questo insomma sì, a prezzi politici. Per tutti i dettagli e le informazioni sul web? C'è una pagina Instagram che in questo periodo viene aggiornata insomma tutti i giorni, cioè vengono inserite cose, credo sarà inserito anche il programma approssimativo, come sempre, non si sa mai bene quello che succede e in che orario. E poi c'è una pagina Facebook. 17ª edizione della festa Bertani Dai a Roma, Trastevere, domenica 5 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Lorenzo Terranera. Un abbraccio. Grazie mille. A domenica. A domenica. Ciao. Ciao, grazie. Siamo arrivati all'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana a teatro e non solo, con Simone Nebbia di Teatro e Critica, ben trovato. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ed è un buon pomeriggio sicuramente, ma sicuramente non una settimana particolarmente ricca di appuntamenti teatrali, perché insomma è naturale, siamo a fine stagione, i pochi teatri che in realtà ci sono a Roma non hanno di certo stagione estiva, inizia il festival fuori programma, quindi qualcosa arriverà di qui a poco, inizierà poi settimana successiva attraversamenti multipli, ma per il resto non c'è granché. E questa settimana vedremo un po' di lavori giovani, ecco, il tempo, il modo di andare anche a vedere il teatro che sarà quello derivato dalle accademie, dalla Silvio D'Amico, anche le altre, insomma, che presentano i loro lavori di fine corso e quindi fanno vedere un po' di segnali su quello che ci aspetterà nelle stagioni successive, e quindi andiamo a vedere un po'. Comincia chiudendo in realtà la stagione del Teatro Vittoria, comincia la settimana, diciamo, perché questa sera alle ore 21 c'è un lavoro firmato alla regia di Chiara Stella Sorrentino nella rassegna Sappiamo i Talenti, ultimo dei quattro spettacoli di questa 13ª edizione, ne verrà fuori un vincitore. Questo spettacolo è l'ultimo, si chiama Meridiani, la cui drammaturgia è di Carlo Galiero. Si parla di due orfani cresciuti insieme con le feste dei bambini e il loro legame, chiaramente fatto di sentimenti ma anche di frustrazione e di tante altre cose, lo andremo a scoprire il 31 maggio, cioè questa sera, al Teatro Vittoria per Sappiamo i Talenti. Mentre spettacolo che resta, ed è un po' quasi il solo spettacolo della settimana, non proprio l'unico, ma insomma il più interessante, il 26 maggio ha cominciato fino al 5 giugno per vedere in scena Il Filo di Mezzogiorno al Teatro Argentina da Goliarda Sapienza, con questo teatro, il suo libro autobiografico, la regia di Mario Martone, con in scena Donatella Finocchiaro. È una scrittrice atipica, particolare, controcorrente, partigiana, femminista, una lotta contro il conformismo, quella di Goliarda Sapienza. Questo libro fece scandalo nel 1969 e ora è ripubblicato dalla Nave di Teseo e sarà in scena appunto con la regia di Mario Martone fino al 5 giugno. Poi c'è al Teatro India qualcosa ancora, perché fino a domani, questa sera e domani, c'è la possibilità di vedere una esercitazione a cura di Giorgio Barberio Corsetti da Pierpaolo Pasolini, Scheggia ancora di mille vite, ed è un omaggio per Paolo Pasolini al tramonto, tre giorni, cominciato ieri, dedicato appunto ai suoi versi per celebrare i 100 anni dalla nascita, tra gli ambienti interni ed esterni del Teatro India, quindi per una zona anche piuttosto cara al poeta poeta bolognese, friulano, romano, poeta italiano, poeta del mondo, insomma il poeta probabilmente non ha provenienza, non potremmo dirlo. Poi segnalo un paio di cose al Teatro Torbella Monaca, perché c'è un omaggio a Billie Holiday, per chi amasse la musica della grande cantante del blues, del jazz, Billie la Frivola, con Rosy Giordano, che cura la regia di questo spettacolo, domani, 1 giugno alle ore 21, appunto dedicato a Billie Holiday. Invece 2 e 3 giugno andremo a vedere un lavoro dedicato invece alla rivoluzione cubana, scritto e diretto da Paolo Pompili, che porta in scena giovedì 2 e venerdì 3 giugno questo spettacolo, che si chiama Santa Clara, cronaca di una rivoluzione. Siamo nel 1959, Fidel Castro ed Ernesto Guevara della Serna, detto Che, prendono Santa Clara, l'ultima importante battaglia, deviando, se non ricordo male, un treno, e quindi conquistando il controllo sulla la Cuba filoamericana che c'era stata fino a quel momento. Quindi interessante lavoro, forse, ecco Federico, anche da monitorare per questi spettacoli in onda, dal appunto il 2 e 3 giugno al Teatro Torbella Monaca Santa Clara, cronaca di una rivoluzione. Qualcos'altro ancora? Sì, perché al Teatro Basilica dal 2 al 5 giugno per Gin Trip, per Gint, di Ibsen, in realtà dà le mosse a questo lavoro, che è un adattamento di Stefano Sabelli, appunto insieme al Teatro Basilica, con un po' di attori, insomma, siamo nel 1867, durante un viaggio in Italia, Ibsen, autore già molto rappresentato, mette a nudo le contraddizioni della borghesia ottocentesca con Peer Gynt e questa opera sua abbastanza onirica. Lo stesso anno Karl Marx dà alle stampe Il Capitale, e questo lavoro in qualche modo cerca di mettere in luce proprio quel momento storico a partire dai versi del poeta e legandolo poi, ecco, alla produzione più filosofica appartenuta a Karl Marx. Dal 2 fino al 5 giugno al Teatro Basilica, Peer Gynt è lo spettacolo di cui parliamo, mentre invece al Comet Off fino a domani ancora Valeria Freiberg porta in scena, propone la compagnia Teatro A, Diari Lab, Memorie, Testimonianze, Letture sulla guerra, affrontando appunto questo drammatico tema della guerra, oggi molto molto attuale, mentre invece al Teatro Parioli l'Accademia Silvio D'Amico e il Centro Sperimentale di Cinematografia presentano con la cura di Massimiliano Civica gli allievi attori del terzo anno del corso di recitazione da Silvio D'Amico, dal 1 al 5 giugno, questo spettacolino futile omaggio a Marcello Marchesi, una serie di raccontini, facezie, motti di spirito, filastrocche, poesie, omaggiando appunto il grande Marcello Marchesi. Questo al Teatro Parioli dal 1 al 5 di giugno. E segnalo semplicemente che inizia il 4 giugno fuori programma, che però non inizia, è il Festival della Danza che si è spesso a Roma in questo periodo, nel giugno-luglio, e inizierà poi concretamente l'11 con Enzo Cosimi, ma ne parleremo poi settimana prossima. Ultimissimo lavoro di cui parlare è Gerusalemme Romeo Giulietta al Teatro Mascella, con la regia di Fabio Omodei. Ed è il capolavoro shakespeariano, appunto, Romeo e Giulietta, ambientato ai piedi del muro del pianto. Fabio Modei, nei panni di Mercuzio, lui insieme, diciamo, ad altri attori, fa sedere a teatro uno accanto all'altro cattolici e musulmani. Sarà in scena al Teatro Vascello e appunto tratta di questo tema sempre molto attuale, il conflitto israelo-palestinese, che da tantissimi anni appunto va in scena nei nostri telegiornali, nei notiziari del mondo, e il 3-4 giugno una lettura shakespeariana di questo conflitto sarà al Teatro Vascello con la regia di Fabio Morelli. E questo è tutto, ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.